Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City. 196 gradi sotto zero è la temperatura a cui l'azoto diventa liquido a pressione atmosferica. È freddo ma non freddissimo, e poiché l'azoto liquido è abbondante e facile da produrre, questa temperatura rappresenta una sorta di soglia ideale da superare per tutte quelle tecnologie o potenzialmente tali che funzionano solo con temperature ancora più basse, spesso prossime allo zero assoluto, che è 274 qualcosa gradi sotto zero. E anche se la cosa può sorprendervi, di queste tecnologie ce ne sono tante, come per esempio i cosiddetti magneti molecolari, la cui applicazione rappresenterebbe una svolta nel design di nuovi data server, nuovi hard disk, sistemi di memorizzazione delle informazioni. Ebbene, uno studio pubblicato da un team di ricercatori dell'Università di Manchester su Nature mostra che questo traguardo è vicino. Ne parliamo con Fabrizio Orto, ricercatore della School of Chemistry dell'Università di Manchester, che è stato anche uno degli autori di questo articolo. Buonasera Ortu, benvenuto. Oh, buonasera. Allora Ortu, partiamo da questa soglia magica dei 196 gradi sotto zero. Perché è così importante? Beh, ci sono un paio di ragioni fondamentali. La prima è innanzitutto è il costo, perché le tecnologie che hanno bisogno dell'azoto liquido avrebbero un costo che è diversi ordini di grandezza inferiore rispetto a quelle che richiedono l'elio liquido. Okay. Un esempio molto semplice: un barile di elio liquido nel mercato in borsa costa tipo $5 il barile, invece l'azoto liquido costa, diciamo, a 10 centesimi di dollari al barile, quindi capire che c'è una differenza di costo significativa, diciamo. Cioè, superare questa soglia dei 196 gradi sotto zero vuol dire che un fenomeno che in qualche modo può essere utilizzato in un laboratorio per fare ricerca diventa un fenomeno utilizzabile per farci funzionare qualcosa a livello industriale, no? Cioè, posso immaginare un data server sotto azoto liquido, non un data server sotto elio liquido, oppure ne posso immaginare uno o due in tutto il mondo, per capirsi. Esatto, sì. Abbattere quel costo avrebbe dei risvolti, diciamo, a livello applicativo industriale enormi. Ecco, poi c'era anche una seconda ragione? Sì, la seconda ragione sarebbe perché le pressioni richieste per utilizzare l'elio liquido sono molto più elevate. Ah, pure. Avere dei sistemi di riciclaggio per l'elio che non tutti, diciamo, settori industriali hanno a disposizione. Invece l'azoto liquido, una volta che l'azoto scappa, non abbiamo bisogno di riciclarlo, possiamo semplicemente, certo, reintromettere nel sistema dall'aria, quindi è molto più semplice appunto reintrodurre l'azoto liquido nel sistema. Allora, veniamo alla sua ricerca. Che cos'è, tanto per cominciare, un magnete molecolare e qual è il principale risultato che avete raggiunto lì a Manchester? Allora, diciamo che un magnete molecolare è un'entità molto più piccola di quelle che sono i normali magneti macroscopici che vengono utilizzati, appunto, dal magnete che si attacca al frigo fino al magnete di neodimio che si trova nei dischi rigidi. È una molecola discreta, quindi con una ben precisa geometria che viene appunto da design molecolare che non solo noi a Manchester, ma in tutto il mondo ci sono un sacco di gruppi che lo fanno. Noi siamo in grado di creare, diciamo, un ambiente intorno a un atomo singolo di metallo che appunto riesce ad elevare queste proprietà magnetiche che l'atomo individuale ha di suo. E queste proprietà magnetiche si possono, diciamo, sbloccare grazie a questa tecnica che si chiama appunto la chimica di coordinazione, che è appunto il campo nel quale io faccio ricerca. Perfetto, ecco, e qual è il risultato che avete ottenuto lì? Quindi questo è l'oggetto del vostro studio, il risultato che avete ottenuto è che siete arrivati, no, vicini a questa soglia dei 196. Esatto, normalmente questi metodi molecolari richiedono temperature freddissime per funzionare, perché appunto si tratta di molecole che operano a livello quantistico. E questo tipo di proprietà, appunto, per avere un'applicazione vera industriale devono avere delle temperature più elevate, come stavamo spiegando prima. E la nostra molecola, dopo 25 anni appunto di studio, sì, del magnetismo molecolare, in cui la temperatura massima raggiunta era intorno ai meno 259 gradi, finalmente dopo 25 anni, sì, siamo riusciti ad arrivare a meno 213, ancora piuttosto freddo, però diciamo ci stiamo avvicinando più o meno, un balzo di 50 gradi rispetto alla... Che è moltissimo, ecco, è moltissimo. Naturalmente c'è ancora un pezzo di strada da fare, però adesso questo pezzo di strada non so se sarà più facile, però è quantomeno più breve. Dunque, proprio ieri, Ortu, abbiamo parlato di un oggetto che in qualche modo è un concorrente vostro. Abbiamo parlato di magneti bidimensionali e addirittura di magneti atomici che hanno bisogno del super freddo, insomma funzionano a temperature vicine allo zero assoluto. E dicevamo, sono diverse in realtà le tecnologie che si trovano in questa situazione e che vorrebbero tanto avvicinarsi ai 196 sotto zero. Sono delle tecnologie che farebbero dei balzi in avanti clamorosi se potessero raggiungere certe temperature. L'esempio più lampante è quello che è successo ai superconduttori, che appunto sono stati sviluppati per anni e anni, ma i superconduttori ad alta temperatura sono una scoperta recente. Ecco, che cos'è un superconduttore? Ricordiamolo, no? Sono dei materiali che appunto conducono energia elettrica senza dispersioni e hanno un campo magnetico particolarmente intenso, vengono usati in tanti ambiti, per esempio la risonanza magnetica nucleare. Ecco, è uno di quelli che purtroppo capita di conoscere direttamente. E questi sono son ovviamente materiali diversi da quelli con cui lavoro, certo. Si parla di ossidi di rame, ceramiche. Ma questo è giusto un esempio, cioè finalmente si sta parlando di applicazioni più su larga scala, appunto per il fatto che il sistema di raffreddamento basato sull'azoto liquido permette un diffusione, certo, una diffusione, la speranza per esempio di farci treni, no, a lievitazione magnetica, quello sarebbe l'ideale. Ecco un altro esempio. Sarebbe i qubit molecolari, quindi lo sviluppo di computer quantistici, quello è un altro dei campi, diciamo, in cui si sta cercando di utilizzare questa tecnologia. Sempre nel campo dei qubit si sta cercando di sviluppare appunto dei circuiti elettronici, quindi non necessariamente applicati al campo dei computer quantistici, che abbiano il minimo di dispersione termica quando si passa la corrente, quindi dei veri e propri simili a superconduttori, però fatti con un design molecolare invece che delle ceramiche. Ecco, quindi memorie, computer quantistici, superconduttori, sono tutti mondi nei quali il freddo, diciamo, la fa da padrone. Ecco, proviamo a chiudere. Sì. Cercando di spiegare perché è così importante, perché il super freddo fa la differenza in questi ambiti. Qua si va indietro nel tempo, in realtà. Ritorniamo a Richard Feynman agli anni 50, quando parlava appunto della miniaturizzazione della tecnologia. Normalmente siamo abituati alla tecnologia macroscopica, che è governata da dei fenomeni macroscopici, fenomeni fisici macroscopici. Quando andiamo a livello atomico e molecolare, invece, i fenomeni fisici sono governati dalla fisica quantistica. E questi fenomeni fisici, come si alza la temperatura, la loro importanza viene ridotta, il comportamento prevalente è quello invece della fisica macroscopica. Quindi queste temperature permettono di accedere a delle proprietà fisiche che altrimenti non sarebbero accessibili a temperature normali come a temperatura ambiente. Noi fisici e chimici cerchiamo in qualche modo di trovare, come stiamo parlando appunto con il disegno molecolare, trovare degli escamotage per far sì che questi fenomeni quantistici siano presenti a temperature sempre più alte. Sopravvivono anche quando questi materiali o questi oggetti, insomma, vengono riscaldati, perché questi fenomeni sono estremamente fragili, diciamo così, basta pochissimo per avere quella che i fisici chiamano decorrelazione, insomma la scomparsa di questi comportamenti, certo, appunto tipici della meccanica quantistica. Lasciami dire giusto un'ultima cosa. Io adesso ovviamente lavoro a Manchester, c'è un grosso centro per magnetismo molecolare, però questa ricerca in realtà è nata in Italia, è nata nel 1993 a Firenze, il gruppo di Sessoli e Gatteschi sono ancora dei leader nel settore, quindi diciamo magnetismo molecolare in Italia è un territorio molto fertile. E insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Grazie Fabrizio Ortu. Grazie mille, buona serata. Va bene, ci fermiamo qui come sempre, appuntamento a domani.